Con Andrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla, parliamo di Lucio 80, cioè di un concentrato di iniziative per Lucio Dalla che avrà luogo dall'1 al 5 marzo a Bologna, sia per ricordare l'opera di Lucio, sia per riscoprirlo, l'opera e la persona, in occasione di quello che sarebbe stato appunto il suo 80° compleanno. E si comincia con un gesto simbolico: il 1 marzo alle 11.30 ci sarà infatti l'inaugurazione di una lapide. Sì. Nella sua casa dove è nato, il 4 marzo del 43 in piazza Cavour, e poi subito dopo nella sua ultima casa, quella in via D'Azeglio. Pazzesco che a una distanza di 500 metri c'è la sua prima casa e la sua ultima. Poi il 2 marzo invece alle celebrazioni avrà luogo Ciao, che sarà un pochino una officina creativa di artisti promettenti. Sì, questa idea è nata per, diciamo, anche un po' seguire quello che faceva Lucio, che amava scoprire gli artisti giovani, appena lui intravedeva un qualcosa in loro, non solo nella musica, ma ha scoperto anche dei giovani pittori, ha lanciato anche dei giovani registi. Insomma, Lucio era proprio colpito soprattutto da quelli che avevano un qualcosa di diverso da dire, proprio l'innovazione. Lucio guardava sempre al futuro, quindi in questa rassegna ci saranno questi giovani emergenti con musiche nuove, e quindi un po' per seguire i passi che ha fatto sempre Lucio nella sua vita, nella sua carriera. Seguendo un ordine cronologico, al 3 marzo ci saranno delle visite guidate nella bellissima casa di Lucio. Sì, sì, lì abbiamo deciso di tenere aperto tutto il giorno, ci saranno le visite, grazie ovviamente a Bologna Welcome, il comune di Bologna, dove abbiamo questi accordi, e sarà una cosa molto bella che in quel periodo poi Bologna sarà invasa e credo che purtroppo sarà tutto pieno, no, dico purtroppo per quelli che non riusciranno a vederla quel giorno lì. Contemporaneamente dal 3 al 5 ci sarà la maratona. Sì, perché poi dentro al Palazzo dello Sport ci saranno degli stand e il 4 sera alle 18 ci sarà questo gruppo siciliano, i Beati Paoli, che hanno collaborato anche con Lucio in passato, sono stati anche ospiti di Lucio in casa sua, nella Pressi, nella sua casa discografica, e faranno questo concerto ricordando Lucio con tutti i vari atleti, quelli che saranno lì, perché saranno due giorni che il Palazzetto dello Sport sta pieno di stand, non solo di corridoi, ma insomma di tutte le attrezzature sportive, tutto quello che ci sarà. Altro aspetto importante sarà un'iniziativa editoriale, che sarà un libro illustrato per ragazzi. Sì, quella è, secondo me, una cosa bellissima, non solo anche per il libro che in sé è bello, che viene raccontato Lucio, poi fatto da Sara Mazzetti, che è una bolognese, e per quello che ho ricavato delle vendite e della cena sociale che faremo in casa di Lucio, questo il 4 marzo, che andranno tutte devolute alla Fondazione Sant'Orsola per questa struttura che ha in mente di fare per raccogliere i bambini, i malati, dove potranno studiare, leggere, insomma è una cosa veramente bella. Poi sono anni che collaboriamo con loro, appena hanno delle idee noi ci buttiamo dietro per dargli una mano. Infatti questo padiglione si chiamerà proprio Parco della Luna. Sì. Ricordiamo anche che il 4 marzo ci sarà una cena solidale, esatto, per aiutare questa struttura, sì, aiutare a finanziare questa struttura. Sì, sì, ci sarà la cena in casa, quindi è una bella cosa perché chi parteciperà oltretutto mangerà nella casa di Lucio e quindi sarà immerso nei suoi oggetti, nei suoi profumi, perché comunque i suoi profumi rimangono ancora, cioè proprio sembra che Lucio ci sia da un momento all'altro, insomma si percepisce la sua presenza. Certo, è rimasto. Per ultimo, Lucio sarà su un francobollo. Sì, sì, sì. Il 4 marzo uscirà tramite la Repubblica di San Marino questo francobollo che loro omaggiano Lucio, perché loro l'hanno sempre fatto su grandi artisti, sono contento che l'abbiano fatto anche con Lucio, perché loro insomma ci tenevano, poi dai, è una cosa bella, dai. per festeggiare i suoi 80 anni che hanno pensato a Lucio. E beh, certo, un grande artista, ovviamente. Sì, sì. Benissimo. Sono veramente felice di questo. Perfetto, grazie. Niente, grazie a lei.